notte scura, nera da follia, me ne torno triste sotto casa mia. Ma che fritta che c'è sta, pure l'acqua smessa ed evapora. In questo paese non c'è sta più nessuno, se l'è nita tutto, sono sfollato ormai, perché domani chi lo sa, forse comincia una bombarda. La domani qua non ci sarà più niente, saremmo solo macerie e tutte scarrubate. Stanotte allora resto qua e continuo a passeggiare. Ormai sono vecchio, sai, ci sono nato qua. Se tutto che si cagna non ci voglio sta, e me la voglio ricordare com'era prima sta città. E se per caso moro, moro più contento, sto paese sente pure nulla niente, perché era solo non sa da muri, se in segreto ci voglia sta pure. E per avuto un cane, forse se non sa niente, ma ben appresso io non sa ce che già fa, che colpa isse non ce l'ha, ma ben appresso attacca la baia. Io volesse dice perché ne se ne dite tutto, e poi gli spiega che la guerra è cosa brutta, ma il seccane già lo sa, soltanto gli uomini ancora la staffa. E gli un colonialismo, gli un nazionalismo ci hanno portato guerra, fame e distruzione, ma tu si cane che ha da fa, la sama verde va da salva. E mentre passeggiava si è fatta già mattina, in un rumore strano squarcia su pensier, la prima bomba sta scoppia, e io continuo a passeggiare. Poi arriva nata bomba e roppa nata ancora, non si capisce niente, è tutto in un rumore, ogni casa sta lunga. Prima ci stava e roppa non ci sta, e roppa stufra casa, io non sento niente, tutto fumo grigio e un calore strano. Io vi saluto, ciao paesa, mi raccomando, è tornato qua.